ojo turu sore-sore. Ketok asale saka tela yen ra metok atine rada gelo. Ketok asale saka tela yen ra metok atine rada gelo. Dolanan